叫你了，我从小嘴。 Hey, Yami, what that's all in Mombo? Perfect, so I went on a silencioso. Hey, okay, meglio così. Meglio così, così almeno hai risolto un problema. Picchia, te ne vado a sci luci, ma ci credi, luci. O ci tassi al bagno, sì. Ah, tu c'è una varia, scusa. Sì, io già ho capito. Bene, bene. Sì che hai usato quella al centro, no? Sì, sì. Picchia tra l'altra. Tu, due resistenze, 60 centesimi. E te l'ho detto, cosa butta le resistenze? Te l'hanno fatto pagare anche troppo caro. Ah, cosa vuoi che sia? 60 centesimi, niente. Costerebbero anche di meno, penso poco. Comunque, va bene così. Ah, beh, senza dubbio. Va bene, vabbè, ma ci ho comprato pure due antenne TV, ne ho preso il coso, le ho preso, la miscelatore, poi cosa ho preso? Tutti gli spinuzzi, ne ho già lasciato di là, non è che... Vabbè, hai preso 50 euro, più o meno, tra antenna e miscelatore, vale. E sono aumentati i prezzi delle antenne. Beh certo, si è preso, qual è preso? L'antenna UHF hai preso. VU. Ah, hai preso VU, VU hai preso, io ho capito. Quella, come hai preso? Quella direttiva o quella a pannello? Direttiva tutte e due. Meglio così, dai. Vado bene. Ma per casa tua sei volo, o lì dove sei adesso? No, qua per una signora che abita, un signore che abita qua, nella palazzo di Marina. Io l'ho già piazzata, solo devo passare i cavi adesso. Ma non ho tempo, domani mattina non potevo andare. Passo i cavi, collegamenti, scansione e poi ho finito. Ok, beh certo. Va bene così, va bene. Non c'è problema. È così, cavi buoni prendi. Tanto è inutile risparmiare qualche stupidaggine. I capi devono essere buoni, quelli scalmati bene. Ah, io uso il solito capo e va, che è una meraviglia. Ce l'ho a casa da qualche anno, perfetto, non ho nessun problema. E quelli con la carta argentata, che c'è anche la pellicola di alluminio. Esatto, proprio quello. Quello è il migliore, dai. Quello è il migliore, abbassa perdita. Va benissimo. Sì, sì, no, lì. Poi dipende da cosa vogliono spendere loro. Cosa vogliono spendere? Loro devono pagare quello che tu chiedi, non è questione che cosa vogliono spendere. Se vuoi un lavoro fatto bene, mi mette innanzitutto il materiale buono, se no il lavoro bene non si può fare. No, io intendo il materiale, capito. Il materiale costa, più spendi, più hai, più costa. Ma non spendi, meno hai. Beh certo che sì, è così, ripeti così. Materiale buono ci vuole, per tutti i lavori ci vogliono sempre materiali buoni. Per fare un ottimo lavoro la cosa principale è mettere materiali buoni, non quelli scadenti. Quelli scadenti valgono come scadenti nel senso. Esatto, è così. Io ho preso materiale buono, è buono quel materiale. Non è scarso, ma non è di insomma, materiale di quelli super buoni. Siamo al prezzo sale, capito? È così. Beh certo che sì, ma è così, in effetti è così. Va bene, così almeno. Ti fai questo lavoretto e non se ne parla. Ah, allora giù, il palo è già, le staffe e il palo sono già piazzati, ho già piazzato le due antenne, sono già su, puntate e tutto, ho passato già i due cavi della V e della U collegati al miscelatore, ho detto devo fare solo gli ingressi nell'appartamento e basta. Sono uno, due, tre, vabbè due nell'appartamento, poi da una camera lo passerò all'altra, sono tre attacchi, dai. Ho capito. Come glieli fai? Col partitore li metti da una camera all'altra oppure da presa a presa, con presa di chiusura? No, allora, da soggiorno, dall'antenna arriva a soggiorno, ok? Poi di nuovo dall'antenna arrivo a camera da letto, poi dalla camera da letto della nipote, o con un partitore arrivo nell'altra camera. Io ho capito, no, perché si può fare anche la scalata da presa a presa, però l'ultima presa deve essere una presa con la resistenza, cioè una presa di chiusura, che funzionano ugualmente molto ma molto bene. E poi c'è l'installazione lì, nella zona là dove sei tu, segnale ce n'è a gogo. Ma solo a gogo. Ce n'è a voglia. Ce lo credo, per cui anche se sono partitore andava bene lo stesso. Non c'è problema, va bene, dai. La presa, tu mi dirai, è un po' meno professionale. No, è professionale lo stesso. Quando si tratta di poche prese, di poche stanze, va bene lo stesso, no, non è un problema. Però l'ultima presa, quella più lontana, devi metterci la resistenza di chiusura, se no non vedi bene. C'è una resistenza di chiusura, ma inteso un attimo. Sarebbe questa resistenza. Allora, a parte il fatto che l'impianto non è sotto traccia. È un impianto che purtroppo loro... Allora, qui ognuno ce l'aveva centralizzato. Adesso ognuno ce l'ha per i fatti suoi. E i cavi passano... Cioè io i cavi li faccio passare in terrazzo, sopra battiscopo, buco il muro e entro dentro casa. Il cavo rimane alla fine dietro i mobili, volante, ecco. Non ce ne vuole, come hai detto tu, come questo coso che hai detto tu, Giulio. Io lo faccio così, a casa lo faccio lo stesso. Ho fatto la calata e ho fatto le tre divisioni col partitore. E non ho nessun problema a vedere la TV. Eia, ti spiego, quando tu fai così, cosa succede? Che in una prima presa hai tanti decibel, nella seconda ne hai un altro decibel, un pochino meno, qualcuno meno, ancora meno, così va, più prese metti e meno segnale arriva, perché? Perché c'è la dispersione dei cavi. Questa dispersione si può recuperare facendo l'ultima, una presa che finisce lì, cioè senza la possibilità di mettere altri allunghi per la presa. Praticamente è una presa che c'è una resistenza dentro, si chiama resistenza di chiusura, si chiama, poche parole, le prime due, tu ne hai fatto tre prese, no? Le prime due sono prese che puoi attaccare sia al cavo di entrata che quello di uscita per portare all'altra presa e così per la seconda presa. E l'ultima presa invece attacchi solo al cavo di entrata senza possibilità di attaccare il cavo di uscita, cioè allungare ancora. Mi sono spiegato? Allora, il discorso è questo, che non ho mai avuto problemi facendo così. Perché ti spiego, se io mi prendo le due uscite dal miscelatore, è diretto, capito? Anche se il cavo è leggermente più lungo, non ne ha perdita, a parte il fatto che c'è un monte oro di fronte, non penso che abbia perdita da niente, vedete, non ne ha assolutamente. Ecco, e qua la stessa cosa, fa casa di marina, entra il cavo di, come si dice, il cavo dal miscelatore, ok, e poi va a finire dentro casa, fatto una miscelazione, poi c'è un partitore che fa cucina, allora c'ha due uscite, di cui, allora aspetta, sicuramente male c'ha due uscite, ne ha uno per camera da letto e uno per il soggiorno, poi da soggiorno c'è un partitore che va a finire in cucina. Già ho capito, come hai fatto tu io già ho capito, ma io ti volevo dire che l'ultima presa che hai fatto facendo come ti ho detto io è di mini partituri, perché allora che cosa succede? Quando tu metti partituri devi pensare che è un minimo di assorbimento, cioè un calo di dB hai, perché ogni partitore ti ruba non meno di 2-3 decibel a partitore, sicché incominci tu a entrare con un segnale, poi arrivi all'ultima presa, non hai più la stessa entrata che hai nella prima, capisci cosa volevo dire? Dunque, facendo come ti stavo dicendo io, il calo è molto ma molto inferiore, però quello che ti dicevo, ci vuole una presa finale, chiamiamola così, presa finale, cioè in poche parole esistono le prese che tu attacchi il filo di entrata, poi c'è sempre della stessa mozzettiera, attacchi l'altro filo che ti porta all'altra presa, sino ad arrivare alla terza presa, succede questo, però la terza presa non c'è quella possibilità di metterne ancora un'altra, perché è una presa di chiusura. Mi sono spiegato adesso? Sì, però giù, questo che sto facendo io, ripeto, c'ha le due uscite che prende dal miscelatore, che va a finire in camera, poi da camera, purtroppo mi devo fermare e metto un partitore, si vede, no, non è una perdita, si vede tutto, la stessa cosa casa. La stessa cosa, non ho nessun problema, avevo i canali tutti, io ho più di 200, più di 260 canali vedo, adesso di meno, perché sicuramente ci stanno lavorando su, qualche canale manca, non so se te ne sei accorto. Sì, perché adesso con il nuovo sistema 4G e 5G devono eliminare più canali, dai, perché prima un switch, prima ne conteneva per dire 5-6 di canali, adesso ne contiene anche 9 addirittura, per cui hanno fatto spazio, allora eliminano un certo numero di canali per fare spazio, vabbè, ma questo è un altro discorso. Sì, sì, io ho capito come hai fatto tu, va bene, non ti sto dicendo che non va bene, va bene, certo che va bene, ma ti sto dicendo che avresti potuto risparmiare i partitori, perché? Perché il numero delle prese non era così eccessivo, dunque avresti risparmiato i soldi dei partitori, non c'era bisogno di mettere, visto e considerato che esiste questo tipo di presa che fa entrata e uscita, praticamente quella presa così fatta con entrata e uscita ti risparmia l'innesto del partitore, quello che sto dicendo, che l'ultima presa invece non deve essere quella, deve essere una presa di chiusura, e cioè una presa che non ha una seconda uscita, tutto io, però va bene lo stesso, non ci sono problemi. Vabbè, ma poi se lì non esistono, non ha impianto come ce l'hai tu a casa, che lo stesso mi entra il cavo e i cavi passano esternamente, cioè sono nascosti, non si vede niente. Sì, beh certo, quelli sono sotto traccia, certamente, probabilmente sono sotto traccia i cavi e non li vedi, io ecco, come l'interferente non li vedi, no. L'unico cavo che vedi è dalla presa alla televisione, quello spezzone che serve per collegare la presa che c'è a muro direttamente alla televisione, quello lì è lo spezzone che vedi, così si fanno gli impianti, gli altri sono tutti sotto traccia. Esatto, e vabbè, comunque già segnale lo prende a bomba perché ce l'ho di fronte Monteoro. Beh certo che sì, tu pensa che i segnali che io a casa prendo lo spinotto, cioè prendo quello spezzone che va dal televisore alla presa, lo avvicino, solamente avvicino, senza entrarlo dentro la presa, lo spinotto già si vede già il segnale, per dirtene una, no? Per cui vede bene che quanto segnale c'è qua, non c'è problema. Ah, a voglia, Lavora di fronte anche tu. Si vede bene, si vede bene. Cosa ti volevo dire? Pensate che funziona a voi. Oh, vabbè, non ne hanno proprio antenne, hanno quelle antenne cinesi, quelle che si mettono sopra il mobile. Io penso che con questa risolvono il problema. Il nonno vuole Rai 1. Negli altri canali poco di interesse, ma Rai 1 perché non prenderli. Vabbè, quando si mantiene stelle è tutta un'altra cosa, già lo credo, ci mancherebbe altro, è tutta un'altra musica, gli impianti vogliono così, l'impianto interno, vabbè, cioè l'antenna interna può essere, all'occorrenza può anche servire, certo che può servire, però non è che puoi avere tutti i segnali come l'antenna esterna, no, ci mancherebbe. Vabbè, comunque, stavo dicendo, la resistenza che hai messo nell'alimentatore, io dico che non scalda, perché devi pensare che la resistenza, se non ha un certo wattaggio, si scalda perché dissipa calore, no? E allora dissipando troppo calore si potrebbe bruciare, mentre invece quella che ti ho detto io così, di quel wattaggio lì, non scalda nemmeno, hai capito? Si conferma, sì. E beh certo. Poi c'è quella più grossa. Facciamo leggermente poco più lenta, no? Poi ho provato questa qua, va bene, ma ecco si sente qua. Forse l'ha sentito poco. Ora attaccato il microfono, Già va bene, così già va bene. Se la mia la senti tu, dimmi se la senti tu la mia, la cosa. Io ce l'ho nello stesso tavolino, sotto il baracchino c'è l'alimentatore, la senti? Sì, si sente. Ce l'ho nello stesso mobiletto, è un tu immaginati un tavolino di televisione, dai, diciamo. E ci sono i ripiani, sopra c'è il baracchino e sotto c'è la cosa, la alimentatore, ma è switching, è una 30 ampere, però si sa, è sempre una ventola. La ventola prima era un elicottero, adesso è lenta, non è più come prima. La sto facendo funzionare a 6 volte, se puoi immaginare, da 12 che dovrebbe funzionare, perché con le ventole funzionano, mi sembra, a 12 volte. Non a 13, ma a 12 volte non funziona, come il vento del PC, no? E io la sto facendo funzionare solamente con 6 volte, proprio perché ho messo quella resistenza che ha abbassato i giri, ecco, diciamo. Sì, sì, e beh, no, va benissimo qua, è andato un po' fastidioso. Allora, me ne vado a tuo, Gio Maria, quella era lento, quella andava benissimo, questa qua invece è più veloce, boh, non so perché. E tu pensi che l'avevo portato anche a 13,5,4 mi pare, boh, invece di essere 13,8. Invece adesso è a 13,8, come velocità va benissimo, perché se io l'ho rallento, rallenta ancora di più la ventola. Eh beh, certo che sì. No, tu, ma tu hai portato la velocità al baracchino, cioè il voltaggio al baracchino 13,5, 13,8, però la ventola io dico che funziona a 12 volt, sicuramente c'è una resistenza di caduta di tensione costruita, è stata costruita così, perché quelle ventole, per quanto ne so io, funzionano a 12, non a 13,8, perché se funzionassero a 13,8 probabilmente si potrebbero anche bruciare. Beh, certo, certo, sì, sì, 12, 12 volt la ventola, sì, 12 volt, no, va bene, adesso, va, super contento, ce la pongo in terra, va, ma non lo sento più. Sì, perché se lo metti nel mobile risuona, il mobile stesso fa da camera eco, mentre invece se lo metti per terra il pavimento è più solido e si sente di meno. Anch'io ho fatto quella prova e in effetti quando lo metto per terra non la senti praticamente niente. Adesso però io non lo posso tenere fuori, lo tengo nel tavolino e ciccia, tanto quello che senti già è una cosa abbastanza leggera, no? Adesso sì, ma sta giù bosso, dentro il cassetto del comodino. Vabbè, quello sì, però fagli prendere aria, fagli prendere aria, perché dentro il cassetto sì, potrebbe andare bene, ma non so quanto tempo può resistere, perché all'interno si forma c'è una certa temperatura, per cui è meglio sempre che sia libero. Già la biglia d'aria, avere un fresco, questa gamma, la voglia, già la nuova scalera non scalda di sicuro. Beh certo, ma così già va bene, non si sente quasi niente qua, è poco, ma è una cosa molto leggera, no? Poi quando parli li copri tutto, la copri, il rumore della ventola lo copri. Beh, dai giù, ti lascio un 10 minuti, un quarto d'ora vado a farmi una doccia, dai. Adesso facevo un lavoretto, stamattina, e ho bisogno di farmi una doccia. Se ci sei dopo, io lascio tutto acceso qua, ok? D'accordo, ok, buona doccia allora Luca, ci sentiamo là dopo, ciao. Ciao, a dopo, ciao Giulio. Giulio, buonasera, stavo provando un microfono giù. Oh, ciao Fra, va benissimo Fra, non c'è problema. Hai capito quale microfono sto provando, sì? Il 60. Disturbi c'ha sotto, la modulazione com'è, va bene? Sì, va benissimo, è perfetta. Okay, dai, allora lascio così. Perché ho dovuto fare praticamente un filo di massa giù, perché se lo mettevo fuori sopra il tavolo mi fischiava, non ho capito perché. Evidentemente era insufficiente la massa probabilmente. Cosa vuoi che ti dica? Però deve considerare se c'è qualche altra cosa lì vicino, qualcos'altro di acceso, magari, non so, qualche lampada LED, queste cose qua, tutto può influire sulla radiofrequenza. Infatti. Vabbè, adesso non me lo fa più comunque, l'ho risolto, va. Non sapevo cosa era. Vabbè. No, ce l'ho spostato, l'ho collegato a un'altra presa. L'ho separato dalle altre radio. Ok. Sì, invece, no, va benissimo. Non c'è problema, veramente bene. Per cui io te l'avrei detto, se no, no? Sì, perché sai così, noi vabbè, piazziamo un baracchino e tiriamo a campare, però in realtà, come regola, ci vorrebbe il collegamento a terra, a massa, ci vorrebbe, ma cosa che non nessuno di noi lo fa. E chi è che ha fatto un lavoro del genere? Nessuno. Allora in quel caso lì magari qualsiasi rumorino così inopportuno non ci sarebbe più. Ma infatti, mancanza di massa, cioè non me l'ha fatto perché l'ho spostato, praticamente ho spostato l'alimentatore su un'altra presa e non me l'ho fatto, l'attaccavo in quella presa là e me lo rifaceva, non ho capito, forse perché c'erano le altre radio attaccate, quindi adesso l'ho separato anche per quello. Certo che sì, te lo sto dicendo, può essere, se sono collegate direttamente alla presa, senza un interruttore che interrompa la continuità della tensione, deve considerare che in quel caso lì i trasformatori che prendono la tensione, anche se sono spinti, però i trasformatori sono sempre in corrente, perché poi quando tu azioni l'interruttore allora parte la corrente anche per il circuito, no? Il discorso è quello, sarà sicuramente per quello. Infatti in definitiva il problema è quello. Adesso non va bene, mi stai confermando che sta uscendo bene, quindi vabbè, ok. Sì, perfetto, no, non c'è problema. Io ti sento molto bene, dunque, meglio di così, non so cosa dirti. Anche perché ho detto, noi c'ho stazionaria, roba del genere, ma stazionaria neanche si muove, l'ago, si muove appena appena, quindi. Appunto, anche quello, certo. Se le stazionarie sono a posto. Almeno se poi c'è uno a 1,1, 1,2, ma anche sino a 1,5 non è questo grande problema. Si comincia magari a essere un pochino pesante oltre il 1,5, ma non perché ancora posso offrire le cose, il finale, ma soprattutto perché perde molto di trasmissione. Poi si sa, non devi esagerare, se è meglio non andare mai oltre l'1,5 con le stazionarie, no? Infatti giù è così. Perché se no ti perdi anche un po' di potenza, ti perdi. Però si sa, quando l'antenna, siccome l'antenna è costruita per essere 1,1 o 1,2, va benissimo così. Cioè bisogna cercare di accordarla nel miglior modo possibile. Per vari motivi, primo per non rischiare, anche se un domani magari ci metti un po' di potenza, tu sai benissimo che se ci metti potenza, se c'è un po' di stazionale poi aumenta ancora di più, però a parte quello perdi in trasmissione, no? Beh certo, ti stavo dicendo, vedi, tutto, nonostante tutto, la pioggia che ha fatto, quell'antenna funziona benissimo, una cazzata d'antenna però va bene. Beh certo che va bene, a Puglia, capita, mi stai levando benissimo, per cui non c'è problema. Sì, ma quello sì, ma oggi le antenne di oggi io penso che siano più o meno tutte performanti, poi naturalmente c'è quella che spinge di più, quella che dà di meno, è ovvio, questo è normale. Però dal lato della costruzione, per quanto riguarda umidità eccetera, penso che siano più o meno tutte performanti, dai. Naturalmente quando uno la piazza, l'antenna, bisogna anche avere un certo criterio, no? di sistema, come ad esempio usare il vulcanizzante, eccetera, eccetera, no? già mi è capito cosa voglio dire. Allora, oggi questa antenna l'ho piazzata io. Questa antenna ci ho messo un paio d'ore a piazzarla perché ho fatto un lavoro fatto bene. Prima di tutto, prima di piazzarla, l'ho tutta guarnita bene, l'ho siliconata e poi l'ho tutta vulcanizzata, quindi acqua non è passata, ma anche la carico vulcanizzato tutto io, capito? E ho visto che rende bene, vabbè, non ci avrà tutta questa grande resa a livello di Mantova 5, perché la Mantova 5 era molto superiore a questa, niente da dire, però per l'antenna che è ho visto che già va bene. Sì, a Puglia se va bene, mi stai arrivando 9:15, mi stai arrivando in questo momento, figurati, la radio è perfetta, e cosa dobbiamo ottenere? radunano con la modulazione o col segnale. Va bene così, a voi già va bene, sì. Sì, ma infatti la potenza giù io non la posso neanche utilizzare, a parte non mi interessa aumentare potenza, no? Mi va bene così, capito? Poi adesso al prossimo anno do questi benedetti esami, mi sto preparando e poi salirò sul tetto e sistemo un po' le questioni, capito? Metterò qualche dipolo anche per i 40-80, capito? E vedo un po' di sistemare un po' le cosette. Ok, fai bene, certo. Fai bene, sei giovane, dunque hai tutto il tempo per poter studiare tranquillamente, non c'è problema. Fai bene, se hai quella intenzione, fai bene a farlo. Tutte le cose vanno fatte quando uno ha la volontà di farlo, è meglio che le faccio, vai. Giù la voglio prendere perché mi piace averla e poi voglio anche... È una bella cosa averla, dai. E andare sulle altre frequenze, capito? È tutto un altro pianeta da qua. Lo so, quello sì, è ovvio. Hai possibilità di parlare in altre frequenze, certo. Sì, beh, questo sì. Anche se non è che ci sia, almeno qui in Sardegna, anche ieri stavo ascoltando queste la gente che si lamentava che non c'è molta attività, però questo non significa niente, se uno si collega fuori e va ugualmente bene, non c'è problema. Allora Giù, io ti posso dire che stavo guardando quel sito Radio Maturi, di quella radio, tipo 140, 440, 680, l'altra volta c'era un 600, un 680, ma nuovo è, ancora con la scatola, tutto quanto, ma stava dando 350 euro. Sì, ma suppongo che i prezzi siano quelli, dai, sono almeno su questo, quella marca lì, sul tempo, poi gli altri, non lo so, probabilmente sono un po' più costosi. Lo so, io giro sempre su internet, diciamo, e controllo proprio queste cose, perché non so fare molto al computer, però diciamo che lo uso il computer solo e quasi esclusivamente per ispezionare, così per sondare un po' la rete per quanto riguarda l'elettronica, ma per il resto non mi interessa più di tanto. Ma al massimo posso leggere la Nuova Sardegna o che so io, il Corriere dello Sport, per dire, ma certo non mi interessa Facebook, andare a chiacchierare e a ciaramizzare, come si dice in gergo, con quelli che sono sempre attaccati a Facebook. Non mi interessano, anzi non ce l'ho nemmeno Facebook, non l'ho mai aperto Facebook. Infatti. E volevo dire Giù, non è che ti capita qualche capsula di microfono normale, no? Perché c'ho io una carcassa di microfono, c'è tutto, che avevo un'altra capsula, però non va bene perché sono di quelle capsule ceramiche e praticamente vanno alimentate a 9 volts, capito? Se vanno alimentate non lo so, io ti posso dare una capsula di telefono che mi avevo dato a qualcun altro anche, e so che si possono mettere tranquillamente di cornette di telefono, quelle sì, quelle te le posso dare, perché se da qualche parte le ho conservate, adesso non mi ricordo magari esattamente dove sono, dovrei cercarle, però ce l'ho qualche cornetta di telefono, che ci sono le capsule e si può utilizzare quella. Allora io Giù avevo un telefono di quelli con la videocamera, roba del genere, che era l'ho demolito perché tanto non ne faccio niente che ce l'ho. E praticamente però quelle capsule, se non sono alimentate, non funzionano, capito? Se tu vai a piazzarle su un microfono normale non vanno bene. Ma questo non te lo so dire, questo non lo so se funzionano o meno, se si possono fare qualche applicazione per fare funzionare, non lo so. Ma al limite uno cosa fa? Se le cerchi anche su internet, in due giorni ce li hai, guarda. Anche Amazon te le manda, perché io le ho viste tantissime volte, di qualsiasi tipo di microfono, le capsule ci sono, non solamente di quelli per le trasmissioni, ma anche addirittura quelli da spettacolo, cioè per cantare, eccetera. Capsule ce ne sono un'infinità, anche Amazon ce li ha. Il discorso è questo, ok? Infatti fai il calcolo, perché se costa 8 euro il microfono ne costa 15, mi conviene prendere un microfono normale completo, capite? Quello buttarlo. Ah beh, questo è un altro discorso, ma quelle capsule così normalissime non costano sicuramente 8 euro. 8 euro possono costare un coso, una capsula di un Turner più 3 per dire, o di un altro tipo di microfono di una certa importanza, ma non di quelli così palmari, assolutamente no, quelli costano a livello di 2-3 euro o non di più, sono più che sicuro. Vai a comprare una capsula di un MC60, va a vedere cosa costa. Quelle costano una trentina di euro, buono, già lo so, ma stiamo parlando di un microfono che costa 150, 160 o 170 euro, è tutta un'altra storia questa, no? No, adesso l'MC60, io l'ho visto nuovo, costa quasi 200 euro, con spese di spedizione gratis. E ti posso dire che la capsula supera i 40 euro pure. Sì, ma è possibilissimo, certo che è possibile. Lo so, purtroppo, tanto meglio, se costa 200 euro, tanto meglio. Allora, maggior ragione per pagare una capsula 35-40 euro, è ovvio, no? Ma se parliamo di un microfono che costa 15 euro, la capsula intanto ce l'avrà Fusaro, ce l'avrà sicuramente, e ce l'avrà anche Tonino lì a Serra Secca, suppongo che ce l'abbiano anche loro, ma sono capsule da pochi centesimi. Io mi ricordo, le compravo, che erano quelle ceramiche, allora, ma parlo di tantissimi anni fa, quando facevo quei microfoni di legno, eccetera, io ne ho comprato tantissime di capsule e componenti, ma erano una miseria. Io facevo un microfono con qualche lira, ma proprio qualche lira, perché allora le capsule cosa mi costavano? E non solo le capsule, è tutto il resto, compreso anche il potenziometro, il volume, eccetera, eccetera. E sono, non lo sai, certi componenti non è che siano così costosi, no? Non stiamo parlando di componenti di alta fedeltà, ad esempio, o professionali, di apparecchiature professionali. Sono giocattoli praticamente. Marcello, infatti giù, è quello il discorso, il politico. La roba buona purtroppo la paghi, non ce n'è. Se vuoi roba che funzioni bene, io sono sempre di quel parere, ma sia con tutte le cose giù, aspetto, però mi compro sempre roba buona, perché tanto è inutile risparmiare 50 euro e poi compri mondezza. Io la penso così. Ma qual è il modo migliore di acquistare? Per fare acquisti bisogna sempre prima di tutto pensare a lungo quello che effettivamente ti serve e ti può servire nel tempo, perché magari puoi comprare una cosa, la usi oggi e domani ti sei già stancato, non te ne vai di nulla, per dire, no? Però indipendentemente da quello, quando compri devi comprare materiale buoni, è ovvio, se no cosa ne fai? Caspita, non è il caso di andare a buttare soldi, perché effettivamente si buttano soldi quando compri una cosa che non è buona. Purtroppo è così, come dice il proverbio. Se impendi oggi, impendi pure domani. Se invece spendi oggi per ricomprare domani, non va bene, ma devi spendere oggi per spendere anche domani, cioè nel senso che anche domani quell'oggetto lo utilizzi. Ma lo sai cosa ho recuperato oggi, Giulio? Indovina. Non lo so, qualche apparecchiatura, boh. Ero ai Tirino, no, da un parente della mia compagna, che c'aveva un vecchio baracchino, non so se lo conosci, il vecchio Polma, te lo ricordi, quello bello, 23 canali? Sì, ce l'ho avuto io ho avuto qua da 80 canali, pensa un po'. Ho avuto io anche qua da 80 canali, che poi l'avevo dato, non mi ricordo più a chi, però l'avevo dato. Era veicolare sempre ed era 80 canali, 40 più 40 era, ed era bellino anche, e aveva anche un'ottima recensione, era bello veramente, così di figura, non era molto grande, era compatto, abbastanza compatto, però era di lusso veramente. Me l'aveva dato un mio cugino che ormai è morto da alcuni anni, che abitava lì via Valdella, abitava in quella zona lì. Allora, Allora, questo è il 23 canali, il 23 canali quarciato praticamente, il vecchio Polmar, dai, non so di che anno sia, perché e mi ha regalato quelle, una Grand Prix di quelle antiche. Ho capito. Anche a me questo me l'aveva dato, questo parente che ti stavo dicendo, aveva dato questo Polmar, e ti dico perché. Perché l'aveva comprato e l'aveva regalato alla figlia, l'aveva regalato questo baracchino. Quando l'ha acceso ha sentito, allora erano quegli anni famosi, no? Quando c'erano le maleducate in frequenza, ha sentito qualche parolaccia, ha preso subito, gliel'ha ripreso alla figlia. E ce l'aveva sempre conservato in garage, ce l'aveva. Un giorno me ne è venuto il falegnameria e mi ha detto, Giulio, a te serve, visto che tu usi questi baracchini, lo vuoi questo? E l'albero era nuovo, ma veramente bello. Abitava lì in via Baldella, questo mio parente, che purtroppo è morto, lavorava alla Telecom, lavorava allora era Sippi, però prima si chiamava Sippi. Sì, ho capito. Solo che adesso lo devo tutto pulire, perché tutta la pulita c'è un po' di polvere. Adesso domani lo smonto tutto, lo pulisco e poi lo metto in funzione. Comunque funziona, ho provato la trasmissione, va bene, ricerciamo lo stesso. Però vuole tutto sistemato, vuole pulito, le manopole da lavare. E ce l'aveva in garage un po' di anni fermo, pensa tu. E poi ho recuperato 5-6 PL di quelli in baccherite gialli, l'Alfenox mi sa che siano. Quelli già ce li ho io, addirittura ne ho due anche di quelli professionali, adatti proprio per il 213 o per la Camille, e tra l'altro, che poi non l'ho mai piazzato, mai. L'avevo comprato per mettermi uno su per l'attacco dell'antenna e uno dentro casa. Siccome io utilizzo la Camille come cavo di discesa, e la Camille ha il cavo un po' locale, diciamo, quello centrale, che è rigido ed è grosso 2,6 mm, eccetera eccetera. Quando lo infili dentro il PL entra quasi forzato, perché è talmente preciso il polo caldo all'attacco centrale del PL, che non c'è stato bisogno nemmeno di saldarlo. E così era, avevo provato, anche perché in quel periodo non avevo un saldatore che mi funzionava. Così era e così l'ho lasciato. E ormai è anni che è sempre così. Non l'ho mai saldato. Vabbè. Adesso domani lo pulisco con la radio lì e la uso e la provo a vedere un po' come va. Tutto qua, e cosa mi va? Purtroppo è quello il discorso. Anche oggi sta piovendo, ogni tanto fa una bastonata, poi molla, poi rifà. Non ti fa fare niente questo tempo qua. Sono incasinato, devo fare un bel di cose, non posso fare nulla. Lo so, purtroppo è così, tempo brutto non ti permette tante volte di fare quello che uno deve fare. E anche io mi stavo pensando, quasi con l'antenna, che è la Game Master, no? La tiro giù per controllarla da vicino, perché adesso sì, non è che sia molto in alto, è 2 metri, 2,5 metri ad avanzare nella mansarda, ma quando la smonto così la vedo da vicino, se c'è qualche crepa, qualche cosa nel coso, e così le faccio, diciamo, un po' di manutenzione, almeno se non altro a pulirla, a spolverarla dallo smog che nelle antenne si attacca, almeno quello farò, e poi la rimetto di nuovo lì e non se ne parla più, ma sono perché ho il tempo per farlo, mi sono annoiato, non so cosa va con questo fatto del Covid, non esco mai, sono sempre a casa e faccio solo le uscite quando è veramente strettamente necessario, se no non mi muovo mai da qua. Tu, se mi dai 5 minuti di tempo, voglio provare quel toccaio a vedere come va. Prova, sono qua, non c'è problema. 5 minuti che lo provo. Ok, dai. Giulio. Sì, dimmi, l'hai attaccato? È una cagata, no. Gli ho adattato l'MB più 4, com'è? Va benissimo, altro che a voglia, una bella radio. Va bene. Vabbè, pochi vatti dammi, 5 vatti, 5 vatti, più di tanto, più di 5 non è da. Comunque la radio com'è? Beh, brutta. No, perché il microfono non ce n'era, capito il suo. Quindi gli ho adattato questo MB4, e si c'ha a provare se va bene, va bene. Sì, va bene, va benissimo, non bene, va benissimo. A voglia. Il segnale è sempre lo stesso, quello che avevi poco fa ce l'hai adesso, anche se sta appena di meno, ma quasi niente di meno. Siamo a 9.14, 9.15 modulati e oltre anche. E allora gli andava bene, dai. Allora funziona bene. Ora. Ehi, vabbè, una radio così è giù. Ehi, vanno bene, poi queste sono quelle, quel tipo di radio vintage praticamente, vanno bene, altro che vanno benissimo, non bene. Non si guardano mai, tu lo puoi lasciare 50 anni conservato nel cassetto, quando lo riattacchi funziona, perché così sono, magari a differenza di qualche apparecchiatura moderna di oggi, se la lasci da parte tanto tempo è probabile che quando lo riattacchi non funziona più, quelle funzionano sempre. Ma infatti, questo va bene, sì, va bene, vuol dire che c'è una radio storica adesso, dai. Oh, se ti fidi è meglio da 68 questo qua. Che avanti? Doppio rum. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Fra, che radio stai usando? Oh, sto usando un Polmar che mi hanno regalato, un 23 canali. Gli ho adattato l'MB4. Ma quello blu è? Io gli ho adattato, perché mi ha dato senza microfono, ho capito. Mi ha regalato un amico e lo sto provando che stava funzionando bene. Comunque non ne prende i colpi questo. Ma qual è quello blu metallizzato? Papà, quello che c'è, allora è tutto metallizzato. E azzurro metallizzato rimane il frontalino, capito? Con i 23 canali tutti illuminati. Lo Twitter è giallo però. Sì, sì, lo conosco, lo aveva, ce l'aveva solo Luca. Comunque è bello, solo c'ha 23 canali, vabbè non me ne frega niente, giusto per, meglio di niente. Me l'ha regalato, intanto non stava più usando, ce l'aveva in cantina, figurati tu. Poi mi ha dato anche una Grand Prix di quelle vecchie, che c'ha ancora il coso, e lo stilo centrale c'è la bacchilite bianca, figurati quanti anni c'ha. Vabbè, magari funziona, è interessante che va bene. Ciao Giulio, non so se ci sia altra gente. Comunque saluto tutti cordialmente, dai. Ciao, ciao Gianni, ben entrato. No, siamo solo noi, no, non c'è altra gente, perlomeno in frequenza no, magari ci sarà qualcuno all'ascolto, questo non lo so. Sì, stavo dicendo che ce l'ho avuto anch'io diversi anni fa, un Polmar così, però quello che avevo io era 80 canali, Gianni, era 40 più 40, ed era bellino, bellino. Poi era anche pesante, come radiolina era molto pesante, dunque di concezione antica, diciamo, per così dire, vintage, dai, il tipo vecchio di costruzione che facevano prima, vai già. Sì, me lo ricordo come se fosse, c'è scritto Pol sopra e Mar sotto. Allora, quello che avevo io era nero, però avevo 80 canali Pol, ma la marca ce l'aveva proprio sul frontalino, davanti, poi c'aveva un commutatore, c'aveva che passavo dai 40 normale, passavo ai 40 sopra, o sotto, sai che quello non me lo ricordo, se era sotto o sopra, sai, quello non me lo ricordo, però mi ricordo che erano 80 canali già. Sì, l'avevo modificato tutto, oppure era proprio della fabbrica? No, era così, proprio originale così, era di un mio cugino che ormai è morto da tanti anni, che abitava lì vicino a te, ma stesso, in via Valdella abitava, nel palazzo, tu lo sai dove abita Muricchio, già lo conosci a Muricchio, il meccanico, lì nello stesso palazzo abitava, e lui era dipendente della Sippi, allora, e lui lavorava nella società dei telefoni, lavorava, e l'aveva comprato in quegli anni, questo baracchino l'aveva regalato alla figlia, l'aveva regalato. Appena che ha sentito le parolacce del momento di quegli anni, subito gliel'ha ritirato e non gliel'ha più dato, già. È venuto e me l'ha portato in falegnameria, ha detto te giù, con la scatola addirittura me l'aveva portato, preso un po' nuovo, adesso non ce l'ho più io, l'ho dato, non me mi ricordo più nemmeno a chi l'ho dato. Vai fra. E questa è sì, è definitiva. E vabbè, a me me l'ha regalato, vai, torcialo voi, se me lo dai, non lo uso, e portatelo via. Vabbè. Ah, mi ha detto pure, aspetti, do anche l'antenna, mi ha dato pure l'antenna. L'antenna funziona comunque. L'antenna funziona perché l'ho provata ed è buona come antenna, solo che fa quella bomba di TV hai. E la roba è così, fa TV hai, però vanno bene. Sono belli apparati, io ho avuto il Polmar Nevada in macchina, era piccolino ma potente, era piccolo, c'erano le cose essenziali. Ma sono uscito già. Sono uscito e forse ho premuto male, dai. Ho visto che c'era la portante, non c'era la voce, e gli ha adattato questo MP4 e andava giusto giusto, c'ha gli stessi collegamenti del 68. Vabbè, sì, siamo quegli apparati, quindi quello che ce l'aveva uguale un amico mio, usciva bene, usciva con la boomerang che arrivava a tutte le parti. Questo ce l'ho piloti con il B150, lo sai quanto esce forte questa radio? Sono radio di vecchia generazione, c'hanno i quarti e tutto quanto, capito? Sono radio diverse da quelle di adesso. Quelli che fanno adesso già, per carità, lascia stare, io ne ho aperto una a vedere cosa c'è dentro, non c'è niente. Sì, sono microcomponenti che è difficile anche lavorarci qua, gente che lavora su quei componenti lì non ce n'è, sono i continenti che fanno queste cose. Poi non le puoi neanche modificare, perché non c'è il posto neanche di entrare un dito dentro. C'hanno dei trimerini piccolissimi, ma piccoli per ombi. Sì, hanno tutti i microcomponenti. Più gli avanti, sempre meglio la roba vecchia, anche i finestri delle macchine, prima a mano bella non si rompevano mai, questi di adesso si rompe sempre un motorino. A me per cambiare le funi del freno a mano della 147, 100 euro, con le funi portandogliele tu, capito? Solo di mano d'opera, 100 euro volevo. Fatti un conto, io ho fatto i freni da poco, sono andato a mettere le pastiglie nuove perché mi stava fischiando, ma anche camminando fischiando, l'ho portato a Franco. E mi ha detto, già ci vogliono le pastiglie, se vuoi quindi a consumarti, e dice, ma quanto c'è la macchina? 3 anni, e allora cosa pretendi? Allora io sono sceso in campagna, l'ho sollevata la macchina, l'ho messa sopra a due cavalletti seri, non cavalletti di quelli che non servono, è meglio cambiati io le funi. Non ho usato neanche le chiavi, pensa tu, neanche le ruote ne ho tolto. Ok, sì, no, ma c'era qualche altro, forse voleva entrare qualcun altro. Sì, ma purtroppo è così, prima era tutto diverso. Se torniamo indietro di parecchi anni, uno prendeva 50.000 lire al mese, oggi mi dà 1.200 euro, 1.300 euro, 1.400, 1.500 al lavoro, per cui purtroppo è così, oggi la manodopera è costosa, lo sappiamo. Vediamo, forse c'è qualcuno che vuole entrare, avanti? No, qualcuno mi era sembrato che si fosse affacciato perché ho sentito due colpi importanti, va bene, dai. Riprendi fra. Allora io a livello di meccanica dalla macchina mia mi faccio quasi tutto io, Giulio. Tutto. Freni, pastiglie, dischi, tutto io mi vuoto questa roba. Le funi e la cinghia di distribuzione che non è tocco, capito? Sì, ho fra. Quando io ero giovane, tu presente ce l'hai, io avevo 1.100D tantissimi anni fa, proprio quando mi ero sposato, avevo 1.100D. Beh, io ne ho tolto il motore da solo, da dentro il vano motore, l'ho fatto a pezzi tutto quanto, gli ho fatto il ripasso, gli ho fatto le modifiche ai pistoni, gli ho messo i pistoni a tassello, avevo portato il cilindro da Ciano Meloni, allora c'era Ciano Meloni lì a Sarasecca a fare la rettifica eccetera eccetera, e avevo fatto dare i pistoni a tassello che avevano una compressione micidiale e mi sono fatto il ripasso al motore io tranquillamente senza nessun motivo, con le chiavi di falegnameria e con il libretto che ti danno loro di istruzione, cioè di manutenzione, la Fiat, per cui prenditilo. Ed io non so che ci ho fatto mai il meccanico, io ho fatto il falegname, ho fatto. Prenditi, ma è di giovane, a te non mi pongo a fare una cosa del genere, ma vuoi scherzare? Prima si poteva fare anche perché il tipo di macchine aveva un altro tipo di costruzione. Oggi invece ci vuole anche un meccanico che sia bravo, soprattutto attrezzato, con l'attrezzatura, se no nemmeno lui riesce a fare un buon lavoro. Vai Gianni. Glielo prego Gianni, adesso tutto elettronico, già lo prima. Se sbagli qualche cosa, qualche sensore, qualche cosa non sta andando allo motore, si blocca. Ci hanno bloccati proprio il motore, quando sta, c'è qualche problema si blocca da parte della macchina. Però ti evita danni. Ma per dire, no, prima si potevano fare tantissimi lavori, ma nelle macchine di oggi, prima di tutto non c'è nemmeno lo spazio di metterci le mani più. Prima invece, nelle macchine di prima, c'era il motore, ci potevi mettere anche un bambino dentro, ma che vita sia, per tirare lo spazio, e potevi lavorare tranquillamente. Perché quando dovevo fare ad esempio il motore di avviamento, portavo forse l'elettrauto, ma vuoi scherzare? Andavo con una 13, non lo smontavo, me la portavo dentro, il falegname lì, la privo, la reservo, tutto quanto, e cambiavo le spazzole, cambiavo tranquillamente. Per dire, tutte queste cose me le sapevo fare anch'io. Se non mi pongo avanti, ho 80 anni e faccio anche lavori, ci mancherebbe altro. A parte il fatto che oggi non si possono fare, perché con il tipo di costruzione di oggi, delle macchine di oggi, è tutto un diverso modo di fare, per cui non è possibile, assolutamente. Te lo sto dicendo, oggi il meccanico che non è aggiornato, quello non è capace nemmeno di lavorare, se non è aggiornato e se non ha le attrezzature giuste, tipo Franco Solinas, tanto per fare un esempio, lui ce l'ha l'attrezzatura ed è bravo, oltre al fatto che fa i corsi di aggiornamento, di tanto in tanto tu lo vedi chiuso un paio di giorni, perché lui è fuori per fare i corsi di aggiornamento dei vari tipi di macchine. Vai Franco. Lascia, si conferma, anche perché oggi la nuova tecnologia delle macchine di oggi praticamente è tutta, se non c'è il computer, attacchi il computer praticamente ti dà tutti i difetti, tutti i problemi, i sensori, ci sono varie cose, capito? Non è così, quindi devi essere aggiornato per fare quel tipo di macchine. La 147 ora che ora qualche cosetta riesce a farla, capito? Ma non è, le macchine più recenti di quelle sono tutte completamente diverse, Giulio. Adesso vi ho ordinato i quattro dischi, le quattro pastiglie da internet. Adesso come mi arrivano me li cambio, tanto ci vorrà 2 ore di lavoro e sono fatti. Vai, come è? Beh, Claudio, buonasera. Come è? Vai, questa meccanico la macchina, vai. Buonasera a tutti. Ci sono fulmini a tutto andare da questa parte, dai. Infatti sto uscendo con questo piccolo. Il resto è tutto spento, però vi ascolto, dai. Avanti Gianni, buonasera. Ciao Claudio, buonasera anche a te. Poi non ho sentito nessuna scarica ancora. Comunque, se ci sono fulmini è pericoloso. Perché cazzo, quando ci sono i fulmini si sente proprio la scarica all'apparecchio. Voi io sono in alto, tu sei in basso, tu sei a livello del mare, io sono ben alto e quindi è più pericoloso. Va bene, riprendete. Fra, io l'ho portata a Franco Rezzeddu, non ha niente da invidiare con Franco Solinas, perché ha sempre fatto Alfa Romeo e gli pesi più di 1000 euro, ha fatto fare tutto l'avantreno nuovo, compresi i braccetti, tutto, poi ho messo 4 gomme già termiche e adesso dura un altro bel po', ammortizzatori anteriori, posteriori, tutta revisionata, tutto a posto, tanto vai a comprare macchine nuove a Fagosa, la mia a posto è nuova, è un motore nuovo a posto, verniciata, tutta. Fino a quando cammina la teniamo, non le butto su delle macchine, però come dice Giulio bisogna portarla sempre da persone competenti, perché sennò fa Zinisolo Gargardi, detto in parole povere. Vai Giulio, rimango in quel rixi, ci sentiamo dopo se passa questo, sta passando un temporale qua, non mi convince molto a me, sta piovigginando, però ci sono fulmini, a tutto andare. Ok, ciao Claudio. Ok, sì, e beh, allora se lì c'è il temporale sicuramente arriverà anche da queste parti, dai. Ma è così, sì, lo stesso, quello io mi ricordo quando lui aveva l'officina in via di Sicilia, lì accanto all'officina della polizia, quando ci aveva, prima che costruissero quel palazzone lì, c'era l'officina della polizia e l'officina di Rusedo, o come si chiama, sì, me lo ricordo, io andavo sempre da lui, soprattutto quando avevo l'Alfa Romeo, ma anche quando avevo le macchine Fiat, lo stesso, andavo sempre da lui, perché allora Franco non era maculato, per dire, no, tanto per essere chiari, però ormai io mi seguo da Franco da parecchi anni, moltissimi anni, tanto più che eravamo vicini, e ho potuto constatare il tipo di persona e soprattutto la qualità dell'operaio, perché Franco devo dire che è un ottimo meccanico, aggiornatissimo sempre, e soprattutto attrezzato, lì lui non va a pasticciare, quando gli dice cosa ti fa di questa macchina, quale difetto, e mi fa questo difetto, e va là, e comincia a smontare per vedere di trovare questo difetto, lui piazza la macchinetta, una specie di computer, come vuoi chiamarlo, non lo so, e ti dice per fine, per segno, il problema è il difetto della macchina, è così che deve lavorare.